699 gnocchi di latte. Dose per 6 persone. Latte 1 litro. Zucchero grammi 240. Amido ridotto in polvere grammi 120. Rossi d'uovo numero 8. Odore di vaniglia. Mescolate il tutto nel modo stesso che fareste per una crema e mettetelo al fuoco in una casseruola, girando continuamente il mestolo. Quando il composto sarà divenuto sodo, tenetelo ancora qualche minuto al fuoco e poi versatelo in una teglia o in un piatto all'altezza di un dito e mezzo e tagliatelo a mandorle quando sarà ghiacciato. Disponete questi tagliuoli uno sopra l'altro, con simmetria, su di un vassoio di rame o di porcellana che regga il fuoco, intramezzandoli con alcuni pezzetti di burro e rosolateli alquanto nel forno da campagna per servirli caldi.